Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Professor Chiesa, lei ha esatto, fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, non so per quale. Autostop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo, eccolo là. Tantissima, come al solito sei tu. Buongiorno alle mie conduttrici che mi accompagnano durante le mie lunghe ore in macchina. Torpedo blu. Stamattina molta nostalgia perché tra la canzoncina della macchina del capo e il boxer che anche io ho avuto in gioventù. Come al capone e in camicetta. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tutto pronto per il via, li vediamo proprio qui sotto di noi, Hamilton e Rosberg. È partito meglio Rosberg, è partito molto meglio Rosberg, che infatti passa in testa. Brutta partenza per Lewis Hamilton, che si è fatto subito passare da Nico Rosberg, che dunque è in testa alla gara. Rosberg in testa, fila tutto liscio alla chicane dopo il rettilineo, l'abbiamo visto proprio con i nostri occhi qui sotto la postazione. La partenza è sbagliata da parte di Hamilton, che addirittura è stato superato non solo da Massa ma anche da Magnussen, quindi quarto Hamilton. Pessima davvero la partenza del pilota inglese. Ecco, vi abbiamo riproposto proprio il Gran Premio della discordia, quello di Monza, quello che in qualche maniera è costato la poltrona a Luca Cordero di Montezemolo, ma non è che ci interessi affrontare oggi il tema Ferrari, il futuro della Ferrari. Noi oggi parliamo di quanto costerebbe assicurare una Ferrari qualora fosse questa l'auto che sceglieremo di guidare. Ma anche per chi non ha una Ferrari, insomma, si accontenta di una normale utilitaria, l'assicurazione è una delle spese fisse dell'anno, del bilancio familiare sicuramente più rilevanti, e per molte famiglie questa spesa da qualche anno è diventato un vero e proprio salasso. L'RC Auto, l'assicurazione obbligatoria, è un settore martellato letteralmente da indagini e inchieste i cui risultati non fanno che contrapporsi. Da una parte ci sono le denunce delle associazioni dei consumatori per le quali il settore è rigidissimo, le compagnie non si fanno poi troppa concorrenza e negli ultimi anni anzi hanno preso anche a rifiutarsi di stipulare contratti di assicurazione in alcune zone d'Italia. Dall'altra parte la categoria, che comprensibilmente si difende sostenendo che le tariffe invece calano, ed effettivamente è stato un po' così negli ultimi anni, che spesso gli assicurati tentano di frodare, circostanza che impone poi di spalmare su tutta la platea degli assicurati i costi delle truffe con premi più alti a carico di tutti. Ieri, in occasione della conferenza stampa di chiusura del progetto RC Easy promosso da Adiconsum, Ado, che cita Finanza Attiva e il Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti, sono stati presentati i risultati dell'indagine sull'andamento delle tariffe RC Auto. Oggi una medesima iniziativa viene presentata a Roma ad un altro gruppo di associazioni dei consumatori, dal Movimento Difesa del Cittadino e da Codacons, che appunto presentano RC Auto su misura, e i risultati dell'iniziativa di ieri sono molto interessanti. Ce li facciamo raccontare da chi li ha elaborati direttamente, per cui intanto saluto Tina Napoli, responsabile progetti area consumatori di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie naturalmente. Poi commenteremo questi dati con Vittorio Verdone, direttore centrale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione. Dottor Verdone, buongiorno. Buongiorno. Quanto costa intanto assicurare una Ferrari? Ci faccia un preventivo in diretta. Facciamolo su Maranello, visto che la Ferrari viene costruita, perché naturalmente è una delle poche cose che ancora si fanno in Italia. Ecco, perché dipende, diciamo, anche dal posto in cui vive il conducente, naturalmente. Assolutamente. Diciamo una Ferrari del valore non altissimo di 200.000 euro per l'RC Auto non avrebbe problemi, visto anche l'acquisto che può fare fortunato. Questo senza poco più di 2.000 euro. Ecco, ovviamente qua le garanzie poi di furto, casco, incendio costano molto di più, e a Maranello si può arrivare intorno a 4-5.000 euro in più, in altre zone d'Italia anche molto di più, ovviamente se c'è il satellitare su questa vettura di pregio. E poi se fosse un diciottenne, il conducente, se magari è papà che acquista l'auto, qua il premio probabilmente lieviterebbe ulteriormente. Un diciottenne che compra una Ferrari, penso che l'ultimo problema sia la RC Auto. Questo senz'altro, dobbiamo convenire con lei, dottor Verdone. Poi andremo invece a chi si assicura su una, per una utilitaria appunto più modesta, come dicevamo. Saluto e ringrazio anche Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, un'associazione dei consumatori, inizia con la K per chi la volesse cercare. Dottor Premuti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Eccoci qua, anche lei ha qualche cosa da commentare sull'assicurazione di una Ferrari? Beh, come no, è già tanto per cominciare la prima criticità, perché comprare una Ferrari e assicurarla per la responsabilità civile costa esattamente quanto costerebbe qualsiasi altra vettura della stessa cilindrata. Però stiamo parlando di classi di utenti estremamente diverse, quindi cominciamo già con la prima discriminazione che parte dal modello del veicolo. Ah, ok, allora magari poi lo approfondiremo anche questo aspetto a beneficio dei nostri ascoltatori. Prima però 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori, e sono certa che stamattina chiamerete in tanti perché è un tema che vi sta molto a cuore. Se siete alla ricerca di risparmio e avete cambiato spesso compagnia, raccontatecelo, come avete fatto ad alleggerire il peso del premio annuale pagato appunto per l'assicurazione obbligatoria dell'auto. Raccontateci le vostre scelte, come vi trovate con la vostra compagnia, che premio pagavate, se avete cambiato, quale pagate adesso o quale pagherete se siete alla ricerca adesso di una compagnia nuova. Avete in famiglia un neopatentato a cui avete regalato l'auto, avete scoperto che l'assicurazione è altissima e vi è capitato di sentirvi raccontare da qualcuno che ha drasticamente deciso addirittura di non rinnovare l'assicurazione? Qua interviene naturalmente purtroppo la crisi economica che ha portato molti italiani a rinunciare addirittura all'uso dell'auto. Dottoressa, a Napoli, cittadinanza attiva, ci dia un po' i dati che avete analizzato e presentato nella conferenza stampa di ieri. Quanto pagano gli italiani per assicurarsi oggi? Siamo al 10 settembre del 2014. Allora, noi abbiamo realizzato questo lavoro comunque per il secondo anno consecutivo e che mettiamo comunque a disposizione del settore proprio come contributo. Allora, innanzitutto, diciamo per correttezza, dico queste tariffe noi le abbiamo rilevate nel periodo di maggio-giugno 2014. Abbiamo preso due tipologie di, diciamo, due profili di utenti: il primo un quarantenne di sesso maschile e un'autovettura di 1300 cavalli in classe di massimo sconto bonus malus, e l'altro il diciottenne di sesso maschile, stesse tipologie, per cui un adulto medio comunque è un neopatentato. Dal nostro punto di vista le tariffe rimangono comunque molto ma molto alte. Qualche numero: per quanto riguarda l'adulto abbiamo la minima a 252 euro e la massima a 1821, con una media di 604. Per quanto riguarda il ragazzo abbiamo una minima di 1119 e una massima di 6699, con una media di 2651. Scusi, mi ribadisce, allora, la massima dove l'avete trovata? Immagino nel napoletano, perché immagino comunque sono sempre a Napoli. Noi dopo tutte le massime sono al sud, comunque tutte le minime comunque sono al nord. Adesso sintetizzo i dati, non stiamo giudicando. È conosciuto questo fenomeno da tempo, l'abbiamo commentato più volte. No, per ribadire ancora la cifra: un diciottenne che si assicura a Napoli, quanto gli chiede l'assicurazione? 6.000 euro e rotti al massimo. Comunque, per cui questo rimane, diciamo, dal nostro punto di vista un dato comunque preoccupante, anche se comparato sulla diminuzione comunque delle sinistrosità, sono anche dati ANIA, e sulla diminuzione dei veicoli immatricolati. Questi alla luce comunque della crisi dei consumi, possiamo comunque dissertare comunque su questo, e rimangono comunque delle tariffe che sono diminuite sui 200 euro più o meno come media rispetto comunque all'anno passato, ma rimangono delle cifre comunque molto alte. Certo. Noi abbiamo il timore che non sia una diminuzione strutturale ma temporanea, proprio dovuta ai dati che ho citato comunque prima. Ci sembra comunque opportuno sottolineare il dato dei 4 milioni comunque di autovetture, dato del sole 24 ore. Esatto, no, perché siccome me lo stanno, se me lo può ribadire, dottoressa Napoli, molti ascoltatori me lo stanno contestando, dicono che non è un dato veritiero, perché molte di queste auto che sono contemplate nella statistica generale, nelle 4.000 auto non assicurate, un ascoltatore e anche altri lo fanno, dicono che queste sono immatricolate e assicurate all'estero, e invece in queste 4 milioni che voi appunto riportate nella vostra inchiesta, sono dati del sole 24 ore, sono proprio auto non assicurate completamente. Sì, sono comunque dei dati, diciamo, che noi comunque abbiamo letto, abbiamo messo comunque sul campo, ma se ne parlano, non siamo solo noi, parlano di 4 milioni comunque di veicoli che circolano senza copertura assicurativa, ma fossero pure 2 milioni, diciamo, mi sembra un dato comunque estremamente preoccupante, che per tutto il sistema può avere delle ripercussioni comunque gravi. Evidentemente. Diciamo. No, senta, un'ultima considerazione, dottoressa Napoli, poi la lasciamo. Avete anche analizzato nella vostra inchiesta le modalità che le famiglie italiane seguono, cercano in qualche maniera per risparmiare su questa spesa che comunque deve essere sostenuta, perché quantomeno un'auto in famiglia è necessaria in gran parte delle città, adesso a parte le grandi città che magari sono servite in maniera in buona maniera appunto dai mezzi pubblici, ma in tante altre non è possibile, quindi l'auto va usata assolutamente. Come fanno a risparmiare? Come fanno a risparmiare? Cioè, sono due modalità che noi abbiamo comunque registrato, più che della ricerca che esclusivamente sulle tariffe, comunque dal nostro comunque lavoro quotidiano e dalla lettura comunque di alcuni fenomeni. Innanzitutto le famiglie italiane e gli italiani indirizzano molto di più il loro bisogno di mobilità sul trasporto pubblico, per cui diciamo c'è un controtendenza rispetto a noi ai decenni precedenti. Comunque le abitudini degli italiani, l'italiano utilizza molto di più l'autobus, la metropolitana, il treno, il trasporto comunque pubblico, per cui utilizza di meno comunque la macchina. Il secondo dato, che invece è preoccupante, è quello delle cosiddette polizze low cost o polizze comunque contraffatte. Per risparmiare comunque il cittadino, diciamo, maggiormente vulnerabile, viene irretito nell'acquisto comunque di polizze che sono comunque contraffatte. Ah, ecco, ma che non hanno nulla a che fare con le polizze low cost che possiamo identificare come quelle distribuite dalle compagnie dirette, perché credo che il concetto sia da chiarire. Invece voi parlate di polizze low cost come quelle contraffatte, dottoressa Napoli, mi scusi. Probabilmente in maniera impropria, noi parliamo comunque, ecco, per scevri da tutti i dubbi, da polizze proprio contraffatte, ecco, che vengono, che irretiscono comunque il consumatore perché sono comunque a basso costo. Certo. Poi, allora, parliamo benissimo. Comunque di questo, è un fenomeno comunque che sta crescendo. Abbiamo scattato dunque la fotografia sulla situazione italiana attuale. Grazie a Tina Napoli di Cittadinanza Attiva, buon lavoro, è stata con noi. Grazie. Noi adesso cercheremo un po' di commentare anche come si comportano gli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 00 24. Volevo subito un commento da Vittorio Verdone. Le associazioni dei consumatori, dottor Verdone, ammettono che comunque i premi stanno scendendo, la battaglia forse era molto più forte qualche anno fa, che vi contrapponeva, no, sul tema del costo dell'RC auto, che comunque manifestava un divario elevatissimo rispetto ai costi che vengono praticati dagli altri paesi europei. Detto questo, comunque in termini assoluti sono ancora spese piuttosto alte per le famiglie. Che iniziative ha intrapreso l'ANIA, l'associazione di settore, negli ultimi anni in qualche maniera per venire incontro a queste preoccupazioni delle famiglie? Ma diciamo, come attività di proposta nei confronti delle istituzioni siamo stati costanti nel sostenere quali sono le ricette utili. La differenza di prezzo che noi stessi abbiamo rilevato in una grande ricerca approfondita fatta all'inizio di quest'anno dimostrano che il costo differenziale è tutto riferito ai sinistri con danni alla persona e in parte alle frodi. I sinistri con danni alla persona fanno la grande differenza di quei 230 euro medi tra le polizze italiane e quelle degli altri principali paesi, perché all'interno di questi 180 euro di differenza, che sono sinistri e tasse, 130 sono per sinistri e la maggior parte, stiamo parlando di 110 euro, sono danni alla persona, perché sono diversi criteri di valutazione. Detto questo, i prezzi stanno scendendo moltissimo. Le rilevazioni sulle tariffe sono solo una parte, perché i prezzi poi sono quelli che si devono rilevare a livello di rinnovo contrattuale. C'è una scontistica importante, c'è molta concorrenza tra le imprese. Quando si parla di low cost bisogna riferirsi a compagnie che esercitano in maniera legittima questa attività. Sì, sì, infatti abbiamo chiarito subito quell'equivoco verbale. Vengono irretiti, ahimè, alcune volte sono vittime, altre volte sono coautori di questa cosa, perché è impossibile pensare che se sul mercato un prezzo è intorno, non lo so, a 700 euro in quella zona, si può assicurare un veicolo a 300 euro, quindi è un incauto acquisto, si dice in diritto penale, quindi bisogna stare molto attenti. Le ricerche vanno fatte con molta attenzione. Quando si fa riferimento ai diciottenni, la ricerca è andata a verificare un profilo praticamente inesistente, perché non ha tenuto conto che la Bersani consente al familiare di avere una classe di merito uguale a quella del primo titolare del veicolo, quindi bisogna andare a verificare non una classe di ingresso diciamo media 14, ma una classe di ingresso mediamente 1, visto che il 68% degli assicurati sta in classe 1. Quindi per tradurci in termini pratici questo aspetto della normativa sulla liberalizzazione di Bersani, mi faccia capire, riprendendo l'esempio che ha fatto Tina Napoli prima, il 18enne neopatentato appunto di Napoli che teoricamente potrebbe anche arrivare a pagare 6.000 euro per assicurare la sua vettura, praticamente potrebbe far uso di che cosa? Abbiamo mai visto un assicurato 18enne che ha pagato effettivamente 6.000 euro. Vabbè, me lo auguro anche, magari il figlio di quello che gli compra la Ferrari, ecco. Fa riferimento a prezzi minimi, diciamo tariffe, prezzi di offerta minimi, il minimo, il massimo ha un senso del tutto relativo, perché per fortuna i cittadini sono avveduti e il mercato poi opera, si fanno scelte razionali o si va diciamo ad assicurarsi, e poi le medie vanno fatte naturalmente in funzione della presenza sul territorio delle compagnie, per cui fare una media aritmetica è del tutto relativo, bisogna andare, noi abbiamo fatto delle analisi sui rinnovi contrattuali, premi pagati, quindi effettivamente corrisposti al rinnovo della polizza, il premio medio di tutta la RC Auto senza tasse è 410, con le tasse si arriva intorno ai 520, c'è una grande componente diciamo fiscale o di oneri aggiuntivi dell'istituto sanitario. Allora, andiamo a Fabrizio Premuti di Consumer Italia, che adesso sintetizzerà un po' tutto quello che abbiamo sentito fino a questo momento. Premuti era già in di Consum anni fa e ha sempre combattuto il fenomeno del rincaro delle RC Auto, diciamo che conosce molto bene l'universo mondo dell'auto, e tra l'altro volevo anche ricordare che avete lanciato come Consumer Italia questo sondaggio fra i vostri associati per capire se sanno che spesso sono assicurati in realtà senza saperlo, anche se per le RC Auto direi che non è possibile, no? Come dire, aver sottoscritto una polizza occulta, non consapevole Premuti, direi intanto. Beh, direi proprio di no, ecco, appunto, sull'RC Auto, diciamo, su qua abbiamo la totale consapevolezza. Assolutamente, la massima consapevolezza dell'essere o al contrario di non essere, perché non si vuole assicurati. Va bene, poi magari parliamo di questo sondaggio, le chiedo però un commento sul tema dell'RC Auto. Sì. Scendono o aumentano questi premi? È vero che persiste questo divario medio fra i costi di una polizza italiana e di una europea che è almeno del 25-30%? Riconosciamo, come dice Lagna, che negli ultimi anni un po' di discesa c'è stata, però in termini assoluti ancora per le famiglie è una spesa veramente importante, impegnativa, a volte insostenibile. Sì, assolutamente. Il problema dell'RC Auto da noi è sempre stato caratterizzato per questa battaglia sul costo. È una battaglia che ci vede ovviamente perdenti da sempre, perché in Italia le polizze RC Auto costano assolutamente di più. Da una parte, Vittorio faceva bene a ricordarlo, c'è una componente fiscale che incide in maniera terribile, che non è assolutamente comparabile neanche quella col resto d'Europa, perché noi spendiamo più o meno il 20-22% sulle polizze delle auto, in tasse, in Europa in alcuni paesi addirittura non c'è alcun tipo di tassa sull'RC Auto. E quindi non dimentichiamo mai che c'è questa componente, questo compagno che ci accompagna anche sulla tariffa dell'RC Auto e che pesa tantissimo. Poi abbiamo il problema delle discriminazioni, che in Italia sono ancora fortissime, perché se le medie tutto sommato ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta, perché il contenimento dei costi ci ha permesso di assistere negli ultimi due anni soprattutto a delle diminuzioni, e le diminuzioni ci stanno, perché lo accennava poco fa lei, a noi piace molto interpellare i consumatori quando c'è un qualche cosa da indagare, l'abbiamo fatto anche relativamente ai contratti RC Auto, grazie all'accordo che abbiamo con gli intermediari nell'ente bilaterale MBEB, sì, in cui negli uffici degli intermediari abbiamo intervistato in 5 macro aree territoriali, uno per uno, i cittadini che andavano a sottoscrivere le polizze, e per cui uno per uno ci hanno dichiarato le loro diminuzioni, quello che riscontravano. Le diminuzioni sono sicuramente maggiori degli aumenti, e in alcuni casi sorprendentemente abbiamo trovato anche diminuzioni del 10%, però poi la sorpresa è nel momento in cui da alcuni uffici di intermediari escono fuori persone che hanno pagato i 1.600, 1.700, 1.800 euro. È vero quello che dice Vittorio, 6.000 euro non li ha mai pagati nessuno, ma non li ha mai pagati nessuno perché la macchina o l'assicura a nome del papà o a nome della mamma, oppure dice io non sono residente in Puglia, io non sono residente in Campania, ma bensì sono residente in Molise, in Piemonte, e fanno un falso ovviamente e diventano da quel momento loro quelli che stanno commettendo un'infrazione. Quindi il problema dell'RC Auto è intanto intervenire sulla riduzione delle discriminazioni che su base territoriale, d'età e quindi del profilo di rischio dei cittadini sono ancora elevatissime. Ed è un problema che sarebbe risolvibile veramente con pochissimo, perché prima lo ricordava Vittorio, sulla Ferrari ce la mettiamo, la scatola nera perché fa tariffa, e beh, mettiamola pure su tutte le altre macchine, sta benedetta. Beh, anche questo, come lei sa, esatto, però diciamo che, come lei sa, il settore assicurativo si è sempre in qualche maniera opposto a questa novità, perché comunque poi sarebbe un costo che le compagnie devono sostenere, che a loro volta dicono saremmo costretti a scaricare sugli assicurati, sui consumatori. Tema che ritorniamo ad affrontare fra un po'. Adesso abbiamo la pausa, abbiamo i mercati finanziari, ma abbiamo anche degli ascoltatori. Mariano da Roma e Giorgio dalla provincia di Milano. Posso sentirlo, Carmelo, velocemente? Mariano, la borsa la faccio dopo. Mariano, buongiorno, così mettiamo un po' di fieno in cascina, come si dice, il suo caso, per commentarlo appena riprendiamo. Mariano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Ci dica. Allora, senta, io le spiego velocemente. Sono contrario a pagare questa tassa, perché questa deve essere una tassa di circolazione, perché una volta era il bollo, no? Adesso il bollo hanno fatto tassa di possesso e va bene. Io posseggo un autocarro bellissimo d'epoca, di particolare interesse storico, che però in famiglia sono costretto qualche volta a usarlo per trasporti, solo che adesso mi devo privare di questa cosa perché devo fare per un anno intero l'assicurazione. Ma visto che adesso ci sono queste scatole nere che sono dei localizzatori, io mi domando perché non si può fare con un messaggio: da oggi io ho la mia compagnia fissa, da oggi uso una compagnia. Ma guardi che per ci sono le tariffe a consumo, se non mi ricordo male. No, Verdone, no. Ma ci sono delle compagnie che in realtà si sono inventate questi prodotti, o me lo sono sognato? Ma a parte le tariffe al consumo, adesso questo è un caso molto specifico. Sì, è vero, autocarro d'epoca, quindi esatto. Potrebbe trovare altre soluzioni con polizze temporanee quando lui lo usa. Ma contrariamente a quello che si è detto, il settore assicurativo ha introdotto le scatole nere. Non è stata la norma, diciamo, che poi ha posto tutti i costi a carico delle compagnie. L'abbiamo sperimentata, la stiamo diffondendo, sono oltre 3 milioni ormai gli automobilisti dotati di questo sistema, con vantaggi notevoli in termini di prezzi, anche i giovani, perché se si va a fare invece un profilo di un giovane che monta scatola nera sulle compagnie che offrono questo prodotto, si andrà a vedere che il risultato è molto diverso da quello che si diceva, perlomeno a livello di prezzi offerti, minimi o massimi. Ma occorre il consenso dell'automobilista per installarla? Oggi la procedura qual è, Verdone? Oppure come la compagnia potrebbe obbligare? Semplice, del resto non è invasiva perché non si va a verificare lo stile di vita della persona. Ecco, esatto, altro grande argomento. Vita, oppure in caso di incidente, come è avvenuto l'incidente, quindi non mi sembra invasione nella vita privata, visto che i nostri telefonini sono collegati eternamente all'etere, quindi siamo controllati con le carte di credito, telefonini ovunque. Cuore e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Per viaggiare bene bisogna avere la certezza di viaggiare sicuri. Quando c'è un bebè a bordo o comunque un passeggero giovanissimo, la sicurezza deve essere doppia, tripla. Mamme, papà, nonni, zii, chissà quanti di voi è capitato, capita quotidianamente di viaggiare con i vostri bambini portandoli in auto. E allora, seggiolini, cinture, blocchi alle porte, quali sono le misure di sicurezza che mettete in atto? Cosa vi preoccupa di più sul modo corretto per far viaggiare i più piccoli? Pensiamo anche ai lunghi viaggi, e qualcuno di questi bebè li patisce un po'. Iniziate a prenotare i vostri interventi, ne parleremo dopo il GR delle 12, 800 24 00 24 per le telefonate in diretta, e via SMS, Facebook o Twitter scriveteci se oggi avete portato i vostri figli in auto, quanti bambini avevate a bordo, quali misure di sicurezza avete messo in atto. Parcheggiato col mio camioncino, tirai il freno a mano con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi. Pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda. Oh, ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? Mi dovreste dare di più. Mi sono rovinato, anzi. Non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni. Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. Invece ce ne sono tanti, però insomma noi oggi ci rivolgiamo invece ai conducenti corretti e che in qualche maniera vorrebbero un po' risparmiare sulla polizza auto. Hanno avuto, come dire, dalla loro parte il mercato e negli ultimi anni le tariffe sono andate leggermente in discesa, però i consumatori sono incontentabili e oggi chiedono un'ulteriore evoluzione del mercato. Vorrebbero consumare solo quando l'auto la usano, come ci raccontava prima l'ascoltatore, che ha un mezzo sicuramente particolare, però magari può capitare anche molte famiglie per come dire, consumare meno anche in termini di carburante, di lasciare un po' più spesso l'auto in garage. Allora dicono, perché anche l'assicurazione non dovrei pagarla magari per quei pochi giorni durante la settimana o durante il mese in cui la uso. Tante le questioni che state ponendo a tappeto all'800 24 00 24. Con noi stamattina Vittorio Verdone dell'ANIA e Fabrizio Premuti di Consumer Italia. Premuti, lei aveva un suggerimento da dare per il nostro ascoltatore con l'autocarro d'epoca? Beh, sicuramente l'avevate già accennato, le polizze a consumo già esistono, basta cercarle, non dico le compagnie perché farei inutile pubblicità, ma insomma è abbastanza agevole rintracciare le polizze a consumo. Poi esistono delle coperture che sono speciali proprio per i veicoli d'epoca, però qui bisogna fare chiarezza su che cosa vuol dire un veicolo d'epoca, perché se il veicolo è semplicemente vecchio, ovviamente non è d'epoca. Quindi deve avere una certificazione particolare il mezzo, diciamo. Certo, ci sono delle registrazioni, c'è un riconoscimento del valore storico del veicolo, a quel punto si assicura anche con veramente pochissimi euro per tutto l'anno. Mm-mm. Però poi attenzione, perché fare la polizza per il veicolo d'epoca non vuol dire che la mattina ci esco e ci vado al lavoro, significa che ho un veicolo che uso soltanto in rarissime occasioni che possono essere legate ad esposizioni, certo, a dei raduni, a delle cose particolari. È ovvio che quella non è la scappatoia che molti hanno pensato di poter utilizzare per andare poi in ufficio dicendo: beh, il mio veicolo è d'epoca perché è una 500 anni. Senta, invece sul tema della scatola nera, lei che cosa ne pensa? Quali sono i motivi per cui magari questa pratica di installarla nella propria auto non è così diffusa in Italia? Secondo lei i conducenti, gli automobilisti pensano di essere un po' monitorati? È davvero un problema di privacy, come anche sollevava il dottor Verdone? Qualcuno teme anche questo, di essere controllato e monitorato nei suoi spostamenti, oppure proprio, come dire, una questione di scarsa cultura su questo? Non sappiamo che magari la compagnia di assicurazione ce la potrebbe installare, l'assicuratore non ce lo dice. Qual è il punto? Ma qui il punto è difficile anche individuarlo, perché da una parte c'è una componente di ipocrisia che è palese, quello dell'essere controllati, perché oggi siamo controllati in tutto, andiamo tutti in giro con lo smartphone, quindi figuriamoci se già non siamo non controllati, ipercontrollati, e sanno in ogni momento, se volessero, dove siamo e che cosa e per quanto tempo ci stiamo. Quindi non è sicuramente l'individuazione oggi il punto. È chiaro che c'è una consapevolezza che l'utente deve avere rispetto all'utilizzo che si fa dei dati che vengono rilevati. Questo non c'è dubbio, massima chiarezza e trasparenza, ma dopo di questo poi il resto è ipocrisia. L'altro problema che richiamava anche Vittorio Verdone era quello dei costi di installazione. Oggi i costi di installazione, diciamo che non esistono più. Tra l'altro sta uscendo un modello di scatola nera che è autoalimentato, così come lo è il Telepass, e non ha bisogno di alcun tipo di installazione, si mette nel vetro della macchina e si cammina. Per cui insomma, quindi, se dovete usare l'auto per andare a trovare l'amante, la possiamo lasciare a casa? Premuti la scatola nera. Prendiamo il tram. Come il Telepass. Prendiamo il tram se dobbiamo andare a trovare, quindi, a fare, insomma, ecco, cose cresciamo. No, perché diciamo che una compagnia d'assicurazione non andrà mai a indagare se siamo andati dalla mafia. Ma infatti, ma il tema è è un po' come le persone che non pagano, insomma, non piacerà a nessuno. Ma è come la questione delle persone che non pagano al casello autostradale né con la carta di credito né col bancomat, ma piuttosto si imbarcano in file che durano ore pur di pagare in contanti, proprio anche lì per non tracciare i propri spostamenti. Io direi che da questo punto di vista ormai è ora che facciamo una bella crescita mentale tutti quanti. Detto questo, altri ascoltatori all'800240024, torniamo ai neopatentati. C'è un bel messaggio di Massimo e ci metti insieme la telefonata di Tiziana da Lucca. Buongiorno. Buongiorno. Allora, figlio di 21 anni. Sì, figlio di 21 anni che ha l'auto da 2 anni circa. Uh-huh. E devo dire che praticamente è costata più l'assicurazione dell'auto, perché gli abbiamo comprato chiaramente un'auto molto vecchia per farci un po' di esperienza, e l'abbiamo pagata 1.200 euro, mentre non riusciamo ad andare al di sotto dei 1.500 euro di assicurazione pur usufruendo della legge Bersani. Allora è proprio, cioè non era un gioco di parole, 1.200 euro l'auto e 1.500 di assicurazione. Sì, sì. E vorrei sapere se queste cifre, usufruendo appunto il ragazzo della legge Bersani, mio marito essendo in una classe di merito bassissima, cioè sotto zero, ecco, vorrei sapere se sono, cioè se queste cifre sono coerenti con l'applicazione della quindi legge. Quindi è già, come dire, l'attestato di rischio è già quello di suo marito? Sì, è quello di mio marito. Ecco, perché altrimenti questi 1.500 euro sarebbero anche di più, 2.000, 2.500, sì, infatti, non lo so. Tra l'altro devo sottolineare che è un'assicurazione telefonica, in caso utilizziamo sempre quelle perché sono meno le compagnie costose. Dirette si fanno risparmiare un bel po' per tutta una serie di ragioni che abbiamo analizzato tante volte. Tiziana, sentiamo un po' Verdone se ci può dare qualche suggerimento per questa ascoltatrice. Certo. Parlavamo della discriminazione territoriale, qua siamo saliti dalla Campania, siamo andati in Toscana. Sì, ma non è una discriminazione, si chiama così anche in termine tecnico, ma è una differenziazione. Ricordiamo che un giovane, anche se usufruisce della cosiddetta legge Bersani, è uno che comincia a guidare in questo momento. Le statistiche ci dicono che la sinistrosità dei giovani è superiore di 200 volte a quella del marito della signora Tiziana, quindi questo vuol dire che il prezzo non può non tenerne conto. Detto questo, è anche possibile che si trovino prezzi diversi, quindi magari 1.500 potrebbe essere un premio, sì, che diventano 1.400 buono per quella zona, ma anche si trova di meno. Un'ultima cosa, mi costringete sempre a fare l'esempio del bisturi: quando parliamo di RC auto non ci si assicura in relazione al valore del veicolo, ma in relazione ai danni che un veicolo può provocare o può anche subire, ma che altro può provocare. Perché ha richiamato il bisturi? €100. Perché un bisturi costa 100 euro e io sono un bisturi, sono un chirurgo negligente e compio un errore molto grave, posso causare danni di milioni. Certo. Senta Verdone, per l'ultima parte del programma. Responsabilità civile. Sì, no, vabbè, per l'ultima parte del programma si può avvicinare un po' al telefono perché la sentiamo davvero male. Sì. Adesso ripristiniamo un po' il contatto con lei, nel frattempo andiamo anche a sentire un po' la viabilità. Cuore e denari. Sono un topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. Allora, intanto tanti di voi ci stanno segnalando le modalità che hanno così utilizzato per poter andare a caccia e ottenere un po' di risparmio sull'auto assicurata. C'è Massimo, che è un nostro ascoltatore, un consulente finanziario, che mi scrive su Facebook che ha utilizzato il tuo preventivatore dell'IVAS. L'IVAS è l'istituzione che controlla il mercato assicurativo e praticamente inserendo i dati della sua auto, le sue caratteristiche naturalmente di conducente e quant'altro, negli ultimi 2 anni ha cambiato compagnia un paio di volte, arrivando a pagare davvero la metà oggi rispetto al primo premio, alla compagnia originaria di un paio di anni fa. Adesso vi ho molto sintetizzato appunto l'esperienza del nostro ascoltatore. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Continuo a sentirvi, a commentare con Verdone e Premuti i vostri casi, poi adesso ritorneremo anche con Premuti al caso del 21enne di Lucca. Sentirei anche Vincenzo da Foggia. Vincenzo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti. Senta, io vorrei fare una domanda. Io la mia compagnia assicurazione mi ha fatto l'aumento del 100% proprio sì. Anno fa. Premetto che sono 20 anni che guido la macchina sempre in prima classe, avendola ereditata da mio padre, quindi mai fatto incidente, con 3 macchine e 2 moto. Da un giorno all'altro mi hanno fatto l'aumento del 100%. Si è lamentato Vincenzo, ha contrattato, sì, sì, negoziato, ha cercato di cambiare? Ho chiamato direttamente la sede centrale di Roma, mi hanno sempre detto che per tutti questi anni ho avuto un buono sconto che adesso certo, non potevano più fare. Quindi adesso tutto in una volta gliel'hanno fatto ripagare. Vabbè. Ho provato a minacciare dicendo, senta, io tolgo tutto, macchina e moto, mi hanno risposto faccia come vuole. Ecco, vabbè. Senta, allora, io ho avviato in questo modo, ho acquistato un'auto, l'ho intestata a mia sorella che vive in Lombardia. Lei non ha la patente. Però tramite con l'attestato di rischio di mio cognato, la legge Bersani, siamo riusciti ad avere una polizza assicurativa su questa macchina. Però la macchina la guido io, che sto in un'altra regione. Infatti. Volevo sapere se era legale, penso di sì. Beh, allora, Vincenzo, comunque lei non ha la patente. Vincenzo, allora, premuti. E qua bisogna veramente inventarsi di tutto. Partiamo dal fatto originario, il motivo per cui Vincenzo si è dovuto attrezzare in questo modo per pagare un premio ragionevole, no? Il 100% di aumento con la sua compagnia storica, oltretutto con anche questa, con questo atteggiamento del dire guardate che io me ne vado, prego fai pure, non ci interessa. Da dove vuole partire? Ce l'abbiamo una mezza giornata, no? Vabbè, andiamo ai 5 minuti che ci sono rimasti, poi magari allora, lei rimane allora, con noi diciamo anche nella seconda parte, sì. Che la compagnia ha avuto un atteggiamento che è folle, è semplicemente folle ed equivale a dire io non ti voglio assicurare. E questo è lo stesso atteggiamento che hanno tutte quelle compagnie che ancora impostano tariffe così tanto elevate, l'abbiamo sentito prima da Tina Napoli, fino a 6.000 euro, che stanno lì non tanto per assicurarli a un prezzo alto, quanto per dirgli ma fai una cosa, ma vattene via e vatti assicurato. Quindi diciamo che un po' forse l'orientamento della compagnia era quello di ridurre la platea degli assicurati in questa zona. Era quello di lasciare quel territorio, comunque di ridurre fortemente su quel territorio la propria presenza. Sento già Verdone che si sta un po' innervosendo, poi lo facciamo sfogare. Si innervosisce, però questa è la realtà dei fatti, quindi lui si può innervosire, ma farebbe bene se come Ania desse un consiglio alle proprie associate che questi comportamenti non sono più tollerabili né da parte dei cittadini né dovrebbero essere tollerabili da parte delle istituzioni. Ma comunque mi sembra bene che IVAS è molto spesso intervenuta su questi comportamenti e sanzioni anche di 1 milione le abbiamo viste in qualche maniera partire da IVAS verso alcune compagnie. Ecco, andiamo allo stratagemma che ha perseguito per risparmiare un po'. Auto intestata alla sorella che non ha la patente, questa sorella abita in Lombardia e lui guida l'auto intestata alla sorella come assicurazione a Foggia. Adesso non c'è probabilmente niente di illegale, certo che è una situazione curiosa. Allora, questo è uno stratagemma che stanno usando sempre più cittadini. In questo, in quel fatto, in questo modo di veramente illegale non c'è veramente nulla, se non che ha cambiato assolutamente, chiaramente, lo stato del rischio dell'utilizzo del veicolo, perché l'utilizzo del veicolo col coefficiente di rischio della Lombardia sarà sicuramente diverso dal coefficiente di rischio della regione dove circola l'auto. Però questo, voglio dire, accade tutti i giorni con tutti i TIR che sono assicurati in una regione, ma dappertutto girano, meno che in quella regione, probabilmente anche all'estero. E infatti, quindi... no, Vincenzo era più che altro preoccupato del fatto che sua sorella non è non patentata, patente, ma insomma, questa signora si può comprare anche 5 auto se le piacciono e tenersele in garage, quindi questo non è il punto. Sì, e le assicura perché non le tiene in garage, ma le tiene in mezzo alla strada, esatto. Quindi questo è un obbligo di legge, lei assolve l'obbligo di legge. Il problema vero viene nel momento in cui molte persone stanno facendo fare artifici a finti intermediari in cui vengono assolutamente contraffatti i documenti di identità e le residenze, per cui una persona che vive a Lucca, così per una volta non parliamo più di Napoli, parliamo di Lucca, bravo, perché tanto è una delle altre città che è colpita dal caro residuato. E come mai? Allora, una persona che vive a Lucca cambia, non lui, ma il finto intermediario, diciamolo, sottolineandolo 10 volte, finto intermediario, gli cambia la residenza e poi trova tramite un vero intermediario subagente che è ignaro del cambiamento qualcuno che gliela assicura in un territorio dove è più compatibile al proprio portafoglio. Queste purtroppo sono delle falsità che vanno assolutamente inquadrate nel fenomeno dei veicoli non assicurati, dei veicoli essero vestiti con l'assicurazione, cioè assicurati all'estero, come ben dicevano in inizio di puntata alcuni ascoltatori, e soprattutto dei low cost. Tutte queste sono riconducibili alla tipologia dei non assicurati. Allora, Premuti, ritorniamo con lei su questi argomenti nella seconda parte del programma, però devo lasciare Verdone, gli posso concedere un minuto e mezzo per commentare quello che abbiamo messo insieme fino a questo momento. Direi a Vincenzo sicuramente, intanto sempre meglio che il contrassegno contraffatto, e quindi si è un po' inventato questo modo, facendosi aiutare da sua sorella, queste modalità che gli automobilisti scelgono per risparmiare. Voi come le monitorate, dottor Verdone? Ah, velocemente, perché vorrei invece vivere su un altro tema. Il prodotto assicurativo sta evolvendo, in futuro chiaramente le scatole nere saranno sempre più diffuse, ci saranno mutualità diverse, chi avrà la scatola nera chiaramente sarà monitorato anche su dove guida, e quindi probabilmente in futuro questi escamotage lasceranno il tempo che trovano. Ecco. Invece volevo intervenire sul tema dei bimbi a bordo, perché... Bravo, abbiamo 30 secondi. Che poi... Noi abbiamo una fondazione, Ania, di sicurezza stradale, interveniamo culturalmente su questo tema, sono ancora troppi bambini non legati, io mi fermo ai semafori, richiamo l'attenzione sui genitori che li portano davanti senza cintura di sicurezza, vedo genitori che li mettono alla guida, in braccio, davanti al volante. È una cosa pazzesca, non hanno mai visto un filmato, che consiglio di vedere ai genitori di quello che succede in un tamponamento a 40 km per carità, il bambino per carità. Non è legato. Fondazione Ania per la sicurezza, andiamo a guardare tutti i suggerimenti che ci danno su questi argomenti, grazie, torniamo dopo il giornale radio. Cuore e denari. Guarda cosa ho preso. Adesso la gente la smetterà di tamponarci di proposito. Bimba a bordo. Bimba a bordo. Da, bla bla bla. Ingordo. E questa si scrive da solo. E prometto che ti porterò per sempre a bordo del mio cuore. La mia bimba a bordo. Sì, anche i Sims si sono cimentati in questo argomento. Bimbi a bordo, sinonimo di buon umore, ma anche di un po' di preoccupazioni. È importante farli viaggiare in tutta sicurezza. A questo proposito, sia il codice della strada che la normativa europea rendono obbligatori i dispositivi di ritenuta per i bambini in auto, dalla nascita fino al raggiungimento dei 36 kg di peso, che corrispondono ai 12-14 anni. Noi questa mattina ne parliamo con il dottor Antonino Reale, responsabile della pediatria di emergenza al Bambin Gesù di Roma. Buongiorno dottore, bentornato a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Grazie intanto, e segnalo anche ai nostri ascoltatori che rimane con noi Fabrizio Premuti di Consumer Italia, perché le domande sul tema delle assicurazioni che sono arrivate nella prima parte del programma sono state decine, per cui gli chiederemo appunto ulteriore consulenza sui vostri casi. E questa mattina, a parte la questione tariffaria, abbiamo anche capito che i problemi che attanagliano i conducenti, gli automobilisti, sono tanti e forse attengono molto di più anche alla relazione con la propria compagnia, che non è più così fedele come in passato, e come dire, sono anche un po' dispiaciuti i conducenti, gli automobilisti, del fatto che le compagnie di assicurazione non ci tengono più a tenere magari anche clienti storici. Magari anche di questo torneremo a parlare, ma adesso rimaniamo ai nostri bambini. Dottor Reale, le racconto cosa fa mia nipote quando la metto dietro e la leggo con la cintura. Mi fa: zia, ma così mi strozzi, con la S, tutta carina. Però insomma è molto importante ovviamente proteggerli quando li facciamo sedere dietro. La scelta del sistema di ritenuta per l'auto, navicella, seggiolino, lovetto, l'adattatore di in base al peso o all'età del bambino, questa appunto scelta non deve essere presa alla leggera, no? Perché è certamente, dottore, uno degli acquisti più importanti per la sicurezza dei bambini che portiamo con noi. Sì, non posso che condividere quanto ha detto, e suo nipote non è affatto originale, perché da uno studio che hanno fatto qualche anno fa, nelle risposte date dai genitori riguardo usino il cinturone di sicurezza o i dispositivi di ritenuta. La risposta è sempre: il tragitto è molto breve, ma il bambino piange, non vuole essere bloccato, ma tanto io vado molto piano e guido con prudenza, e così via. Non c'è niente di più errato. Volevo solo dare qualche dato allarmante: ci sono stati dei miglioramenti negli ultimi anni, da quando si usano in più di più i sistemi di ritenuta, e una mortalità sicuramente diminuita, ma ancora abbiamo dati drammatici. I dati dell'Istat 2012, sono gli ultimi che abbiamo a disposizione, parlano di 51 bambini che hanno perso la vita in incidenti d'auto e 12.000 feriti, di cui alcuni di questi purtroppo avranno lesioni permanenti per tutta la vita. Molti di questi si potrebbero salvare. Secondo dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 70% di queste vite sono risparmiabili con l'uso dei sistemi di contenimento. Vi dico solo questo per farvi capire di quale tragedia, ma è una guerra. Una fotografia appunto dello stato della situazione, appunto in questa maniera possiamo certamente, anche in base a numeri freddi, sensibilizzarci di più sull'intera questione. Dottore Ale, le faccio subito sentire una domanda di un ascoltatore che vedo che già in tanti si sono messi in lista anche su questo argomento, 800 24 00 24 per intervenire sul tema di oggi, assicurazioni a 360 gradi e poi viaggiare con i bambini in tutta sicurezza. Walter da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie di avermi richiamato. Grazie. La mia domanda è la seguente: volevo sapere se è possibile trasportare con seggiolino idoneo un bambino di 4 anni, peso circa 20 kg, sul sedile anteriore nella stessa direzione di marcia con l'airbag attivo. Però con il seggiolino, dice lei. Con il seggiolino. Perché io ho fatto delle ricerche per quanto riguarda il codice della strada e ho chiesto anche alla forza dell'arma dei carabinieri e alla polizia stradale. La polizia stradale mi dice sì, si può, in forza dell'articolo 107 riformulato col decreto legislativo 105 del 2006, mentre l'arma dei carabinieri mi dice che secondo il loro prontuario è sanzionabile. Senta Walter, le posso chiedere perché lo vuole proprio mettere davanti? Le spiego perché ho una bimba che oggi compie 4 anni e due bimbi che fra 20 giorni ne compiono un anno, quindi la mia macchina è un po' affollata. Volevo capire solamente se era un vezzo suo, perché se lo voleva portare davanti per chiacchierarci, per coinvolgerlo anche nella guida, o se invece è una questione proprio pratica. Io sono contenta che sia più su questo secondo aspetto. Entrambe anche le cose, perché comunque è una bimba molto attiva che le piace l'interazione. Guarda. Però insomma, più che altro capire se è possibile, perché non ci stanno più dentro. Comunque, intanto, complimenti per la sua famiglia, Walter. Dottor Reale, che cosa possiamo suggerire? Ma io da medico posso solo dire che è sempre assolutamente sconsigliabile, cioè i rischi aumentano decisamente, su questo ci sono milioni di studi, i rischi aumentano decisamente molto di più se i bambini sono trasportati nei posti anteriori. Sicuramente quindi è sconsigliabile, questo è quello che consiglio. I due bambini di 4 anni e un anno probabilmente possono essere messi tutti e due posteriormente. Tre ne sono, perché ne ha due di un anno. Esatto, e questo è il problema, che tutti e tre dietro la questione c'era. Con tutti e tre i riduttori, se sia un'utilitaria normale. Se non ci sono alternative possibili, deve essere disattivato l'airbag quando si usano i seggiolini. Però magari Walter voleva proprio sapere, magari portando la bambina di 4 anni con il riduttore nel sedile appunto anteriore, se mi ferma la polizia mi fa la multa. Premuti, lei mi può aiutare su questo? Ma allora lì il discorso è che c'è un obbligo specifico nei sistemi di ritenute nel seggiolino, non c'è un obbligo specifico rispetto al sedile anteriore o posteriore. Il problema che metteva in risalto il professor Reale è un problema invece di carattere medico. Ovviamente aumentano enormemente i pericoli se uno trasporta un bambino su un sedile anteriore, e a quel punto bisogna accertarsi in maniera non ottimale, ma più che ottimale, che il sistema di ritenuta che viene adottato sia effettivamente adatto al bambino che viene trasportato. Chiaro. Anche perché qui ricordiamocelo sempre che non si tratta soltanto di bambini, ma tutti, anche gli adolescenti al di sotto del metro e mezzo di altezza, hanno l'obbligo di essere trasportati con dei sistemi di ritenuta particolari. In sì, alcuni sì, casi sono dei seggiolini, in altri casi sono... Guardi, abbiamo chiamato il dottor Reale che sa tutto su questo. E allora partiamo proprio con tutte le età, dottore. Andiamo proprio con i neonati, con i bambini proprio più piccoli. Per questi quale tipo di supporto è indicato? L'ovettoli, come dire, denominiamo nelle maniere neonati, più... Ecco. Si parlerei di bambini, si va in realtà per peso, perché per noi pediatri i neonati sono sotto i 30 giorni di vita, quindi è una definizione limitante. Diciamo che nei bambini dai primi mesi di vita e comunque entro i 10 kg di peso, il bambino deve essere sempre posto posteriormente, sempre messo in senso contro il senso di marcia. Questo sappiamo che i piccolini non hanno una muscolatura tale da, esatto, anche nelle piccole frenate, nei piccoli incidenti nel traffico, quindi parliamo anche di velocità bassissime, non hanno un sistema, diciamo, muscolare tale da reagire così prontamente come un adulto. Hanno la testa più grande, anche questo comporta un movimento del capo e del collo rispetto al corpo diverso di quello adulto, quindi è sempre preferibile mettere in senso contrario alla marcia. E nei piccolissimi si possono utilizzare le cosiddette navicelle, che spesso sono parti integranti di altri passeggini, quindi si smontano. Naturalmente le navicelle devono essere, dove il bambino sta orizzontale, devono essere omologate, devono avere i sistemi di contenzione e di bloccaggio, certo, regolamentari, altrimenti assolutamente no. Quindi o si usano le navicelle o si usano i seggiolini, che poi possono andare bene anche fino alla fase successiva di età, quindi anche fino a 2 anni, 3 anni, diciamo. Generalmente, come dicevo prima, si va a peso. A proposito di questo, c'è un ascoltatore, dottore, che chiede: il mio bimbo di 10 anni, così ci ricorda anche quei parametri di peso e altezza che ci ha indicato prima, mio bambino di 10 anni, 1,48 m di altezza, 45 kg, come lo porto? Allora, 1,45 m, diciamo che... 1,48 per 45 kg, diciamo, già un bel bimbo. Diciamo, perché fino a 1,5 m, fino a 1,5 m c'è l'obbligo di cuscini di rialzo, sistemi sempre di contenzione previsti per legge. Da quella, quindi, si aspetta un altro pochino, l'ascoltatore potrà utilizzare cinture di sicurezza. Ricordiamoci a questo proposito che in Italia le cinture di sicurezza posteriori non le usa nessuno. Esatto. Forse c'è anche questo, e qui parliamo anche da adulti, quindi diamo l'esempio noi, perché io... per primo, le rare volte che non guido, difficilmente l'allaccio può servire. È un grosso errore, una grossa stupidaggine pensare che dietro ci si fa meno male perché non c'è il cruscotto, il vetro o quant'altro. È un grosso errore. Allora, diamo noi l'esempio da quando bambino è nato, che ci veda sempre con le cinture di sicurezza. Un altro ascoltatore invece chiede: i minori sul taxi come devono viaggiare? Non so se ce lo sta chiedendo un tassista a cui magari capita di frequente di ospitare mamme e papà con bambino a bordo, però insomma è abbastanza difficile in questi casi portarsi il cosiddetto riduttore, no, sempre dietro, solo perché magari si immagina di dover fare un breve tragitto con un taxi, e qua ci si mette dietro con le cinture, ci si protegge un po' tutti. Come si fa, dottore? Dunque, che io sappia, non sono un esperto naturalmente, certo, diamo qualche suggerimento di buonsenso. I taxi rappresentano proprio un'eccezione, ma questo vale anche per gli api di pullman, per quei altri mezzi, diciamo, pubblici, per cui sicuramente stare posteriormente sempre, quello è ovvio, ma rappresenta una strana eccezione, per cui aumenta il rischio in realtà quando vengono condotti non bloccati i bambini. Intanto un ascoltatore ci scrive anche al 349-238-6666, ma se volete chiamateci anche all'800-24-0024, faccio il camionista, vedo tantissime mamme che tengono i bambini sulle gambe e fanno loro da airbag, insomma qua pratiche naturalmente che noi vi invitiamo a non seguire, più che scoraggiamo naturalmente totalmente. Peraltro, dottore, altri ascoltatori invece ci segnalano, lei sa che i bambini è automatico, non appena non li mettiamo in auto... si addormentano, perlomeno capita molto frequentemente, particolarmente la sera se sono stanche. Allora Sandra, ad esempio, ci dice: avete un consiglio per quando un bambino che non va più nel seggiolino, perché siamo già a 140 centimetri di altezza, dorme, come si fa con la cintura di sicurezza? Perché i poverini ciondolano un po', no, con la testa, cosa possiamo fare? Fino a un certo peso esistono proprio come abbiamo detto, dei sistemi che bloccano anche il capo del bambino, che in qualche maniera sono un pochino più fermati. Da 1,50 m in poi si parla in realtà di adulti, per cui né più né meno che come un adulto, quindi utilizzare delle cose tipo cuscini per bloccarli un po', ma non ci sono altri sistemi da utilizzare. Certo. A questo proposito sì, volevo dire che i piccolissimi dormono, ma è uscito un lavoro recente interessante proprio sul mal d'auto, sul disturbo d'automobile, la cinetosi, che dice che anche i piccolissimi stanno molto male. Noi pediatri abbiamo sempre pensato che i piccoli, tanti in macchina, si addormentano, stanno lì come delle bamboline. I poveretti manifestano diversamente il loro stato di malessere, per cui possono essere qualche volta irritabili, qualche volta con delle coliche, con pianto. Quindi hanno fatto un lavoro molto interessante negli Stati Uniti, dove hanno valutato questo aspetto anche così diverso adesso dei sistemi di ritenuta, proprio sul fastidio anche nei piccolissimi. Certo. Abbiamo sempre pensato che fossero quelli un po' più grandini solamente, non è solo così. Dottor Reale, mi ha fatto fare un tuffo nel passato, perché io ero una vera e propria vomitina, neanche mi mettevo in auto, proprio star dietro per me. Siamo in due. Ecco, molto bene. 800 24 00 24. Dottor Reale, richiedo un attimino di pazienza, perché abbiamo ancora in sospeso delle domande che avevamo interrotto nella parte precedente della trasmissione sull'auto, che costa. Lei probabilmente è anche un automobilista. Quanto paga lei di assicurazione? È un tema che la appassiona o si occupa più della sicurezza dei bambini? Io mi appassiono più della sicurezza, ma le due cose vanno insieme, perché mi pare di sapere che milioni di italiani non sono assicurati. Esattamente. Mi preoccupa moltissimo. 4 milioni di auto senza assicurazione quasi viaggiano in Italia, infatti. Allora, una domanda per Fabrizio Premuti da Giorgio, dalla provincia di Milano. Giorgio, buongiorno. Poi concludiamo sui bambini. Giorgio si è distratto, naturalmente l'abbiamo fatto aspettare troppo, pazienza. Andiamo allora ad Umberto da Milano e ritorniamo sui bambini. Umberto, buongiorno. Buongiorno, allora chiaramente condivido qualsiasi cosa è stata detta. Una piccola, io mi permetto di dire, precisazione. Mettere il bambino davanti con il seggiolino e il bambino legato con la cintura in maniera corretta, sì, il sedile posizionato in maniera normale, tutto indietro, la seduta, non lo schienale, sì, secondo me, che mi interesso di automobili, non è corretto staccare l'airbag, perché in caso di malaugurato urto i pretensionatori bloccano le cinture, l'airbag è praticamente un palliativo, nessuno va a sbattere la faccia contro l'airbag, non so se mi sono spiegato, perché intervengono i pretensionatori, sì, per cui se magari uno poi si dimentica di riattivare l'airbag e porta un adulto, secondo me è pericoloso, però non è che voglio fare né il polemico. Guardi, né il adesso ci stiamo addentrando su un terreno che io non posso approfondire. Sicuramente posso essere d'accordo con l'ascoltatore, non tutte le macchine hanno il sistema di pretensionamento, ovviamente, e lesioni da airbag purtroppo le vediamo, da scoppio eccetera, personalmente ne ho viste qui in pronto soccorso, quindi è una cosa. Il fatto adesso ormai le macchine, in realtà, ma insomma mi sembra un tema più tecnico, molte segnalano l'accensione o meno dell'airbag, credo, non so se tutto o meno. Allora, guardi, stanno arrivando tantissimi messaggi sul tema di questa mattina. Tornato da Ibiza domenica, tutti i tassisti, ci racconta l'ascoltatore, hanno a bordo il riduttore. Evidentemente là c'è una normativa più stringente rispetto alla nostra. Due bimbi, 2 e 4 anni, seggiolini con cinture in vita e spallacci. Si tolgono regolarmente gli spallacci, questi due bebè. Non riesco a fargli ritenere, a meno di non stringere molto forte le cinture, ma rimangono immobilizzati. Qualche volta bisogna essere un po' rigidi, dottor Reale. Sì, quella è un'età molto difficile, perché un bambino a quell'età contenerla è molto più complesso. E allora tornavo a quello che dicevamo prima, l'esempio. Cioè, il bambino dal momento della nascita, ci sono ospedali nel nord Italia, purtroppo i dati anche qui dell'Istat ci danno grosse differenze tra nord e sud, i dati anche dell'ACI, altri studi fatti ci dicono che l'uso dei sistemi, dei dispositivi di ritenuta è molto differente tra nord e sud. Ci sono degli ospedali, dicevo, nel nord Italia che è la prassi normale che tutti presenti con il sistema, il dispositivo di ritenuta al momento di ritirare i neonati, seconda, terza, quarta giornata di vita. Quindi questo per dire che dal momento della nascita è un fatto di educazione. E questo vale lo stesso discorso per Ibiza, dove passo le mie vacanze, perché c'è una casa lì. Ah, quindi anche lei ha visto i taxi con riduttore. Molto bene. In realtà non è tanto la differenza legislativa, ma la cultura. La cultura. Non vi dico sulle strisce pedonali, non si riesce così a stare sul marciapiede, perché si fermano anche se sei 50 metri distante dalle strisce pedonali. Allora, intanto mi stanno segnalando Marco Lombardo, il mio collaboratore in redazione, che vi siete prenotati in tanti per intervenire questa mattina sul tema della sicurezza a bordo, per interagire con il dottor Antonino Reale, e poi adesso però non rispondete, loro vi stanno richiamando. Detto questo, comunque abbiamo un paio di minuti prima dei saluti, quindi siamo alle battute finali. No, mi interessava molto la questione del mal d'auto, dottor Reale. Allora, detto che, come lei ha segnalato prima, questa indagine statunitense dice che magari per i bebè, proprio per i neonati, non ce ne accorgiamo e loro il loro malessere ce lo manifestano in ogni modo. Una volta che invece la problematica è conclamata, prima di partire, cosa deve fare una mamma, un papà, per limitare al massimo questo disagio che, seduti dietro, appunto i bambini provano? Esistono dei sistemi di prevenzione che conosciamo tutti, ma vogliamo ripeterli rapidamente. Viaggiare quando un bambino magari è ancora un po' sonnato, quindi partire presto, avere una guida tranquilla, questo vale anche per la sicurezza, quindi soprattutto nelle curve, nelle accelerazioni, stare molto attenti, evitare gli odori forti quando si fa pieno di benzina oppure si usa un profumo particolare, a molti bambini, anche a noi adulti, può dare fastidio. Ancora, mangiare piccole cose poco alla volta, soprattutto secche, cracker, grissini, evitando molte bevande liquide, in particolare gassate. La distrazione è una cosa importante, quindi guardare in avanti, quindi mai di lato, leggere un giornalino, guardare, fare il videogioco, perché naturalmente gli stimoli non sono solamente al centro dell'equilibrio, ma sono anche visivi, olfattivi, che possono andare a fastidio al bambino. Certo. Fermarsi ogni tanto, quindi sgranchire le gambe ogni 2-3 ore in un'area di sosta, ovviamente in sicurezza, e distrarre un po' il bambino, fargli respirare un pochino d'aria, e poi naturalmente su indicazione medica per i bambini che ne soffrono in maniera, come sono stato io da piccolo, ma anche adesso se non guido. Sì, anch'io, dottore, se sto dietro un disastro, quindi rapidamente che dobbiamo chiudere. Mi dà fastidio anche a me. Ecco. Esistono naturalmente dei farmaci che sono della famiglia degli antistaminici, che prevengono il mal d'auto. Però cominciamo di sonnolenza. Più che l'acqua, cominciamo con il cracker un attimo, a limitare un po' i danni. Grazie al dottor Antonino Reale per essere stato con noi. Buona giornata. Problema della sicurezza. Grazie anche a Fabrizio Premuti per Consumer Italia. Buona giornata, Premuti. Grazie. Abbiamo terminato, ritorniamo domani. Domani, buon pomeriggio a tutti. Cuore e denari.